Capitolo 45. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe. Mio padre vive ancora». Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Vi prego, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto, perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti, sono 2 anni che la carestia è nel paese, e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare». «Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sosterrò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto, qua». Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questo, i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Intanto la voce si diffuse nella casa del faraone e si disse: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe». Questo piacque al faraone e ai suoi servitori. Il faraone disse a Giuseppe: «Di ai tuoi fratelli, fate questo: caricate le vostre bestie e andate, tornate al paese di Canaan, prendete vostro padre, le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso della terra. Tu hai l'ordine di dire loro: fate questo: prendete nel paese d'Egitto dei carri per i vostri bambini e per le vostre mogli, conducete vostro padre e venite. E non vi rincresca di lasciare la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro». I figli di Israele fecero così, e Giuseppe diede loro dei carri, secondo l'ordine del faraone, e diede loro delle provviste per il viaggio. Diede un abito di ricambio per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di vestiti. A suo padre mandò questo: 10 asini carichi delle migliori cose d'Egitto, 10 asine cariche di grano, di pane e di viveri per suo padre durante il viaggio. Così congedò i suoi fratelli e questi partirono. Ed egli disse loro: «Non ci siano durante il viaggio delle liti tra di voi». Essi risalirono dall'Egitto e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo: Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese d'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro. Essi gli ripetirono tutte le parole che Giuseppe aveva dette loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva mandato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. E Israele disse: «Basta, mio figlio Giuseppe vive ancora. Io andrò e lo vedrò prima di morire».